A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ora benedetti, ora colpiti da proiettili, venerati dalle folle, esibiti dai potenti. E se la gente si accalca per toccarli, vederli, trasportarli, sono loro invece a fermarsi sotto ai balconi dei boss, in un ossequio perverso tra fede e malavita. Questa è la storia di un rito, di tante processioni e di un abbraccio criminale vecchio a volte proprio come certe usanze, ma rinnovato negli uomini e nei luoghi. Questa è la storia dei Gigli di Nola o di Barra nel napoletano, ma anche della Madonna della Catena nella Piana di Gioia Tauro e di una lunga teoria di santi protettori portati in giro per le strade del paese non di rado in un esercizio di potere dei boss più che di autentico credo. E se il santuario della Madonna di Polsi in Calabria è diventato addirittura sinonimo di summit di 'ndrangheta più che di pellegrinaggio di fedeli, nel napoletano c'è chi propone di abolire la processione dei Gigli per sostituire quel simbolo di origine pagana con un loquace silenzio di lotta civica. Mentre spari e risse scandivano la processione di quest'anno a Nola, in Calabria tre sacerdoti di altrettanti difficili realtà dimostravano come la Chiesa sappia anche non tacere contro le mafie. A ciascuno il suo, allora, questa settimana incontra questi tre preti di frontiera, anche se loro non vogliono essere chiamati così, da Lamezia, dal festival Trame dei libri di mafia, Don Pino De Masi della Piana di Gioia Tauro, Don Peppino Gambardella di Pomigliano nel napoletano e Don Vittorio Dattilo, parroco lametino. Passati i tempi da quando il cardinale Ruffini a una precisa domanda e lettera della Santa Sede rispondeva che a Palermo la mafia non c'era, che era un'invenzione dei comunisti per combattere la Democrazia Cristiana. È un dato di fatto questo. Oggi noi abbiamo gli interventi in questi anni dei vescovi calabresi, dei vari episcopati, fino all'intervento di due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche l'intervento collegiale dei vescovi italiani. Per cui è chiaro, ormai è scontato a livello teorico, che la mafia è una struttura di peccato e che Vangelo e mafia non possono andare insieme. È chiaro che questa affermazione però va vissuta nella vita di ogni giorno. I ruoli sono diversi. Ecco, per esempio, è vero che alcuni di noi sacerdoti, parroci, vescovi, non amiamo questa espressione prete di frontiera, però è vero anche che per il ruolo di servizio che noi abbiamo, abbiamo dei compiti perché siamo persone di riferimento. Io ricordo quello che mi ha insegnato con la vita, soprattutto Don Italo Calabrò, vicario generale di Reggio, il quale ci diceva sempre che nel coraggio dei pastori la gente ritrova il proprio coraggio. E questo io l'ho sperimentato nella mia comunità, l'ho sperimentato nella mia gente, come l'ho sperimentato in questi anni nella mia diocesi, per le scelte che ti dicevo che la diocesi ha fatto, di prendere palazzi confiscati, di far nascere la cooperativa, o di un vescovo silenzioso però che si è permesso il lusso di tenere me come vicario generale e anche referente regionale di Libera. Ci sono anche delle situazioni negative, ci sono delle situazioni di connivenza, ci sono delle situazioni di paure, che grazie a Dio però stanno scomparendo. Compito. E come Chiesa, ecco, dobbiamo abituarci, io dico, andate, se andate nel sito della mia parrocchia, lo dico con molte esplicitamente, a camminare, avendo, mi insegnava il mio vescovo di prima, Monsignor Papa, da una tasca il Vangelo e dall'altra tasca la Costituzione e il giornale, il quotidiano, non il quotidiano, cioè il giornale di ogni giorno, cioè gli eventi. Ecco, questo è il ruolo. Cioè non una Chiesa quindi avulsa dalla realtà, non una Chiesa che si interessa solo di sacramenti, quindi di sacramentalizzare, ma una Chiesa... Sì, il riferimento ai santi è molto interessante, anche se ne è occupato molto Isaia Sales, no? nel testo I preti e la mafia, cioè in pratica nella cultura religiosa mafiosa, perché si considerano tali, si stabilisce lo stesso rapporto, no, che solitamente avviene nella richiesta dei favori attraverso il boss, no, si trasferisce nel santo. E quindi tu lo hai sottolineato in un modo molto valido, interessante. Questa ricerca della mafia e della camorra anche di inserirsi nelle feste popolari, particolarmente in alcune devozioni, è qualcosa che ci deve far riflettere, perché in genere il mafioso, il camorrista, ha bisogno della protezione religiosa, si deve presentare in qualche modo con quest'alone, no, dell'essere religioso. Quindi si costruisce la Madonna, che è la protettrice della mafia, della camorra. C'è il santo particolare. Proprio 2 giorni fa il Meridiano e anche il Nolano hanno riportato una notizia che a Barra il sacerdote che presiedeva la festa dei Gigli, ecco, ha benedetto in pratica la paranza dei Gigli, che era presieduta, la commissione presieduta da un noto camorrista, ecco. Questa frammistione tra la camorra e le feste popolari è piuttosto comune, insomma, no? È il boss che si deve far riconoscere come il maestro della festa, e quindi il discorso della religione che viene interpretata da questi personaggi è un problema che vedo anche molto chiaro, probabilmente anche l'Episcopato, spinto anche da questo, no, ha preso posizione, i documenti ultimi sono certamente un incoraggiamento in questo senso. Il problema però che resta è quello della prassi, la prassi che va dai sacramenti alle feste popolari, cioè la Chiesa ce l'ha il coraggio, no, di non dare l'autorizzazione, no, a fare da padrini, per esempio, no, a persone con una mentalità camorristica o mafiosa. Cioè il punto di partenza era quello, commistione tranquillamente tra mafie e Chiesa, quello è il punto di partenza. Ti ho detto, non c'era una seria riflessione sulle mafie, non c'era una presa di coscienza, non c'erano dei punti di riferimento. Cioè la mafia, d'altra parte, non solo nella Chiesa, cioè la mafia per poter andare avanti ha bisogno di legittimazioni. Quindi noi, Chiesa, abbiamo contribuito a legittimare le mafie. Questo è scontato, nessuno sta negando questo fatto. Punto di partenza. La prassi è cambiata totalmente. Oggi nella mia diocesi, su 65 parrocchie, ti assicuro che il mafioso, se c'è in 1 o 2 comitati, che sono lo scoglio duro di ogni realtà, è tutto là. Cioè noi siamo riusciti anche a superare lo scoglio di Seminara, anche nelle intercettazioni telefoniche e nei processi, e si è parlato di queste cose. Siamo riusciti a superare lo scoglio di Sinopoli o di altre realtà. Ecco, quindi io non è che nego, dico il punto di partenza è quello, non si discute. Io nella mia parrocchia questo problema l'ho affrontato niente poco di meno che nel 1992. Quando i mafiosi sono venuti a chiedermi di fare la festa della Madonna della Catena, e io ho detto andate fuori che chiamo i carabinieri, e quella aveva la pistola al fianco. Non solo, ma la notte di Pasqua io ho detto in chiesa alle persone, domenica prossima c'è la festa della Madonna della Catena, sappiate che la festa che stanno facendo i mafiosi non c'entra niente con noi, non date i soldi, denunciate ai carabinieri. Ho avuto le minacce la stessa notte, però la gente ha preso coscienza di quanto io dicevo, il problema è stato superato. La realtà a cui faccio riferimento è molto diversa. Non credo che nella mia diocesi siano molti, salvo il mio, io ho affrontato il problema e l'ho risolto, salvo la mia situazione, altrove i comitati restano, sono controllati dalle persone, la realtà è questa. Ho dato uno sguardo, un libro a un confratello che stava da me, che raccontava la vicenda di 15, questo paese dove si sono distrutti E tu dicevi che si contavano i morti, lì no, non si contano più. Bene, è stato in pratica intercettato una telefonata del boss che diceva: noi dobbiamo prenderci la festa quest'anno. Voglio dire, è una realtà nella quale la Chiesa deve prendere posizione. La Chiesa dovrebbe rinunciare al potere che attraverso la festa, attraverso i santi, si esprime. Quindi, perciò litigano la mafia e la Chiesa, in certo senso, o la mafia litiga con la Chiesa magari non litiga, perché contendono la stessa cosa, mi sto spiegando. Cioè, la fede cristiana dovrebbe come rinunziare, perché lì si tratta di simboli, di segni di potere, no? E quindi cominciare a declinare la fede in un modo diverso da questo. Perciò prima parlavo anche della situazione nostra, la Metina, eccetera, eccetera. Quindi io vedo che la cosa è più radicale, diciamo così, piuttosto che liberarci, perché se noi imitiamo, ripetiamo lo stesso modulo, magari in forma più nobile, più bella, può servire alla gente, eccetera, eccetera, in realtà non è che facciamo un grande passo. Ma noi ai segni del potere, quindi è vero quello che tu dici, ai segni del potere stiamo cercando di dare il potere dei segni, di altri segni. Cacciare i boss che con la pistola in tasca vanno a chiedere di organizzare la festa del patrono, il consenso alle mafie in certe terre si può togliere anche allontanando le loro mani sporche dalle statue dei santi, e la buona semina poi riesce a dare anche i meritati frutti, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Aveva rimandato l'incontro tra la Madonna e il Cristo pur di allontanare i boss. Anche alla Vergine era stato chiesto di attendere pur di tenere lontani gli appetiti delle mafie. E così era successo anche con la Madonna della Catena o con i protettori di tanti altri comuni calabresi. Per tanto tempo la Chiesa ha infatti legittimato le mafie, ma ora sta dimostrando di saper cambiare, racconta Don Pino De Masi, sacerdote della Piana di Gioia Tauro, referente di Libera, che in quella terra ha seminato anche i semi di una cultura nuova, oltre che della fede. E aver avuto diversi ragazzi obiettori di coscienza in una terra dove la rinuncia alle armi era una follia, perché in ogni casa c'erano più armi che persone. Voi capite che anche quella scelta è stata una scelta fondamentale che ha lasciato il segno. Per cui ho proposto a questi ragazzi, dico: vabbè, adesso che c'è questa legge, adesso che i terreni confiscati sono per la maggior parte nel nostro territorio, cosa vogliamo fare? La cooperativa è stato un segno eclatante per la Piana di Gioia Tauro. Chi hanno vinto i ragazzi è stata quella di mettersi in cooperativa in una terra dal forte individualismo. Il nostro DNA non è certamente quello di lavorare insieme. La seconda scommessa è stata quella di di andare a lavorare sui terreni confiscati. Quando parliamo dei terreni confiscati nella Piana di Gioia Tauro, parliamo di personaggi che hanno in mano tutta l'economia non solo del nostro paese, ma l'economia internazionale. Parliamo dei Piromalli, parliamo degli Alvaro, parliamo dei Mammoliti, i primi sequestri di persona, vi ricordate? Quindi non parliamo di così, di gente che non contano. E allora sfidare questi personaggi e andare in quei terreni è stata davvero una scommessa molto forte. Ricordo che quando i ragazzi sono arrivati la prima volta lì, il vicino del terreno dice: ma cusite voi? E col cusite voi non significava chi siete voi, ma chi vi manda, a chi appartenete? Siete dei Piromalli, siete dei Mammoliti? E questo non ci credeva proprio, che quei ragazzi non c'entrassero niente né con i Mammoliti e non con i Piromalli, anzi che addirittura se n'è andato titubante. Eventualmente poi si è informato, e quando il secondo giorno ha visto che i ragazzi ancora non avevano attrezzature, cercavano così con mezzi molto umili a lavorare la terra, dice: ma voi non potete andare avanti così, prendetevi il mio trattore. quella è stata la prima vittoria. E intorno ad un altro sacerdote, Don Peppino Gambardella, si è sviluppato anche il movimento anti-racket che a Pomigliano, nel Napoletano, ha raggruppato gli imprenditori col coraggio di denunciare e cambiare, che senza paura di ritorsioni hanno portato anche all'arresto di un assessore colluso, come ha raccontato lo stesso Don Peppino al Festival Trame. Penso che ogni terra è una terra, nel nostro mezzogiorno, è una terra di frontiera, ma intesa nel senso che comporta tutte le contraddizioni della vita normale, dove legalità e illegalità insomma si intrecciano, no, in un modo forte. Per esempio io ho portato qui un percorso che cerco di fare con i giovani, con i ragazzi, ma applicandoli a livello diverso. Secondo step è a camorra son ghio, cioè sono io la camorra. Confrontiamoci sui nostri atteggiamenti. Cioè il lavoro educativo è quello di aiutare a decodificare alcuni atteggiamenti camorristici che ci portiamo dentro, perché è la cultura che ci impasta, rischia poi nella vita di comportarsi come di fatti un camorrista. Confrontiamoci sui nostri atteggiamenti, sui nostri comportamenti aggressivi, prepotenti, camorristici, come parcheggi la macchina, per esempio, alcune canzoni dei neomelodici che inneggiano ai comportamenti illegali e ai camorristi, che diventano soprattutto nell'immaginario dei ragazzi e dei giovani come dei modelli di vita. Allora decodificare, far capire che non sono modelli di carta, no, non bisogna imitarli. Poi foto safari cittadino su comportamenti illegali dei cittadini di Pomigliano, e abbiamo scelto proprio simbolicamente come nome da dare all'associazione quella di Domenico Noviello, ucciso proprio pochi mesi prima della nostra Costituzione. E l'associazione è sorta e si è fatto subito conoscere, ha aggregato commercianti, imprenditori di Pomigliano, e subito si è creato questo legame tra l'associazione e la parrocchia, naturalmente. Ma il culto, se viene staccato dalla vita, non ha senso. L'impegno per la giustizia, per la legalità, è un impegno religioso. Incoraggiarli a denunciare, cioè in pratica sono avvenute delle cose straordinarie. Certamente l'episodio più grande, più clamoroso, l'avete visto alla televisione, no? L'arresto dell'assessore all'ecologia, no? Del comune di Pomigliano. Ecco, dietro chiaramente c'era l'associazione. Salvatore ha sostenuto, no? Questa persona che era taglieggiata, fino a farlo arrestare, facendolo cadere poi in trappola, no? A ciascuno il suo, termina qua, ma prima di salutarvi volevo dirvi che non ci fermiamo neanche per l'estate, anzi a partire da lunedì ci saremo ogni mattina alle 8.30. Come sempre però, per riascoltare ogni puntata, vi ricordo che il sito è radio24.it nella sezione podcast. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia rubrica, o sul blog Storiacce. L'account di Twitter è invece Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!